Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, a tutti buona giornata. Ricordatevelo bene fra un paio di mesi, perché non sarà un pesce d'aprile, anche se la data vi potrà generare qualche dubbio. Dal 1° aprile Telecom applicherà una tariffa unica per tutte le telefonate da rete fissa, dirette verso i cellulari così come verso i fissi nazionali. Qual è questa variazione? Dagli attuali 9,90 centesimi al minuto verso i cellulari e 1,90 euro al minuto verso i fissi, si passerà appunto a questa tariffa unica di 5 centesimi al minuto verso tutti i canali, verso tutte appunto le telefonate. Questa modifica, definita semplificazione tariffaria, va ad aggiungersi ad un nuovo aumento del canone che salirà per indicizzarsi, appunto per adeguarsi all'inflazione, da 16,64 euro a 17,40 euro al mese. Il provvedimento non convince diverse associazioni dei consumatori, non è un provvedimento, è una decisione dell'azienda naturalmente, che evidentemente ha ritenuto di dover fare questa rimodulazione appunto tariffaria. Come ripeto, l'azienda la chiama semplificazione, ma è una iniziativa che non convince diverse associazioni dei consumatori, che vedono in queste decisioni dell'azienda intanto una modifica unilaterale e al rialzo di alcuni contratti. E appunto, come dicevamo, l'azienda la chiama operazione di semplificazione, e nella forma è così, perché da due differenti tariffe se ne passa ad una. I consumatori invece hanno già dichiarato la loro preoccupazione, perché temono intanto un'operazione non completamente trasparente e temono naturalmente anche delle sorprese in bolletta per chi non si accorge appunto che sta arrivando questa novità. Di fatto tutta l'operazione è finita sotto la lente dell'autorità garante delle comunicazioni, mentre l'azienda, nella persona dell'amministratore delegato Patuano, ha incontrato nei giorni scorsi le associazioni dei consumatori per rassicurarle. Allora noi oggi vorremmo così chiarire un po' quello che accadrà. Cercheremo di individuare quali utenze verranno coinvolte e penalizzate da questi aumenti, e come anche chi deve, cercheremo di capire anche come bisogna comportarsi se si intende non ne subire per certi versi anche questi aumenti che arriveranno su alcuni traffici, come abbiamo già detto, e quindi cosa dobbiamo fare per cambiare o tariffa o gestore in seguito a queste modifiche. Con noi questa mattina l'avvocato Maurizio Di Rocco, specializzato in diritto dei consumatori, che saluto. Avvocato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie per la sua partecipazione e il suo ritorno, così come ringraziamo per il suo ritorno anche l'avvocato Francesco Luongo, segretario nazionale del Movimento Difesa del Cittadino e responsabile del Dipartimento Servizi a Rete. Buongiorno avvocato, ho detto tutto correttamente? Buongiorno. Mi sono un po'... Assolutamente sì. Molto cauta, ma tutto correttamente. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per gli interventi in diretta degli ascoltatori. Chiediamo loro se erano a conoscenza di questa novità che sta arrivando. Se tra l'altro oggi veramente facciamo un uso sempre più sporadico della telefonia fissa, siamo sempre di più abituati all'utilizzo del cellulare, per cui è molto curioso. Ci chiediamo appunto con molto interesse quanto impatto avrà questa rimodulazione tariffaria appunto di Telecom anche nelle nostre abitudini. Immaginiamo già che naturalmente potrà avere un impatto particolarmente dispendioso, soprattutto per le persone anziane, magari, che chiaramente non sono abituate all'uso del cellulare e continuano ad utilizzare il telefono fisso di casa. E quindi, oltre a interpellarvi naturalmente su questo, vi chiediamo anche qualche suggerimento. Voi che cosa fate per risparmiare sul telefono? Raccontatecelo appunto oltre al numero verde. Potete anche scriverci al 349-238-6666, scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Interagite con noi anche sui social network, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. È una giornata di nuovo piuttosto brusca per Milano, che anche oggi mette a segno un ribasso di quasi un punto percentuale sul FTSE MIB. Già ieri Milano è stata la protagonista negativa assoluta d'Europa, ha avuto questo calo di più di 3,5 punti a causa del tracollo subito dai titoli Saipem. Il gruppo ha lanciato questo allarme utili a mercati chiusi nella giornata precedente, quindi conti molto peggiori delle attese sia sul 2012 sia sulle prospettive relative del 2013, e poi è partito l'accertamento anche su questo pacchetto, su questa maxi vendita di azioni del 2-3% del capitale di Saipem realizzata nella giornata precedente alla comunicazione dei conti. Ha intermediato Merrill Lynch, non si sa chi abbia effettuato questo collocamento appunto di azione. Si è parlato di questo grande gestore di fondi di investimenti Fidelity, che ieri ha smentito. In ogni caso, la Consob ha acceso i riflettori su questa operazione, che casualmente è avvenuta proprio il giorno prima la comunicazione di questi conti così negativi, per cui questo pacchetto di azioni appunto venduto, chi ha effettuato l'operazione, chi ha dato mandato di effettuare questa operazione, non è stata colpita da questo tracollo di mercato. Di fatto, dopo il meno 43% di ieri in borsa, una situazione che non si vedeva, io non mi ricordo di aver mai visto una situazione del genere per una blue chip, il gruppo oggi rimbalza di appena il 3%, ma potete capire che è sicuramente ben poca cosa rispetto a quello che è successo ieri. Milano, dicevo, perde un punto. Tra gli altri rialzi segnaliamo Pirelli più 0,3, Azimut più 0,2, Tenaris più 0,19%, ma prevalgono le vendite su tutti i titoli del settore bancario ed industriale. Oggi particolarmente colpita la galassia Fiat. Dopo i dati pubblicati ieri sera, oggi i titoli SPA perdono il 3,59%, i titoli industrial meno 2,29%, tra gli altri ribassi pesanti Mediobanca meno 3, Ubibanca meno 2,57%, meno 2,54, oltre naturalmente a risentire anche dell'effetto Monte dei Paschi, perché inevitabilmente il mercato penalizza ancora i titoli di Rocca Salimbeni, ma ha ripreso ad essere negativo su tutto il settore. C'è da dire che anche lo spread ci si mette, perché ha ripreso a salire pure lui. Il differenziale fra Italia e Germania sul decennale è ritornato sopra i 260 punti base, così tanto per gettare benzina sul fuoco. Questi sono un po' sì, Monte dei Paschi, non ve l'ho detto, molto movimentata la seduta per i titoli senesi, meno 0,08% adesso, e dopo il brusco ribasso di ieri, di nuovo meno 9%, il titolo oggi non riesce a recuperare e si ferma a 24 centesimi di euro. Le altre borse europee sono negative, ma direi di lasciarle, andare al tema di oggi e parliamo di novità tariffarie per quello che riguarda le telecomunicazioni. Ti telefono o no? Dal 1 aprile per i clienti Telecom sarà bene chiederselo con più attenzione, a seconda del numero che si sta chiamando. Da quel giorno, infatti, verrà applicato un prezzo unico per tutte le telefonate da rete fissa, dirette verso i cellulari, così come verso i fissi nazionali. Dagli attuali 9,90 centesimi al minuto verso i cellulari e 1,9 centesimi al minuto verso i fissi, si passerà a una tariffa di 5 centesimi al minuto verso tutti. Un cambiamento che dovrebbe coinvolgere, in particolare, i titolari di un contratto con tariffazione calcolata al consumo, mentre un discorso diverso varrà per chi ha già un costo tutto compreso, senza scatto alla risposta. A questa modifica se ne aggiungono altre. Sale il prezzo del canone, fermo da luglio 2011, che con un adeguamento all'inflazione passa da 16,64 a 17,40 euro al mese. Allo stesso tempo scenderà però lo scatto alla risposta, portato anch'esso a 5 centesimi a fronte degli attuali 7,94. Inoltre, per le chiamate effettuate verso tutti i numeri fissi nazionali, al superamento delle 3 ore di conversazione al mese, scatterà una riduzione del 50%. In parole povere, aumenterà il costo delle telefonate verso i fissi, mentre si ridurrà quello delle chiamate verso i cellulari. L'azienda pone l'accento sulla manovra di semplificazione tariffaria, sottolineando come le novità introdotte offrano maggiore libertà e convenienza sul traffico fisso mobile, sempre più diffuso, il cui prezzo al minuto viene dimezzato. Intanto, diverse associazioni dei consumatori puntano il dito contro la modifica unilaterale del contratto e chiedono che il passaggio alle nuove condizioni sia facoltativo. Il rischio è che i rincari si abbattano sulle persone che usano meno il telefono e su chi, come gli anziani, continua a telefonare soprattutto ai numeri fissi. Queste bollette arriverebbero tendenzialmente a raddoppiare. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? L'interpretazione, come spesso accade, è questione di punti di vista. E infatti è proprio così, perché ieri abbiamo interpellato naturalmente l'azienda per chiedere la loro partecipazione alla loro trasmissione. Ci hanno detto che il preavviso dato era stato troppo scarso, non sono riusciti a trovare un manager che ci venisse a raccontare le motivazioni di questa rimodulazione tariffaria. Di fatto però, quando noi abbiamo chiesto venite a spiegarci i motivi per cui partono questi aumenti il 1 aprile, è un po' l'ufficio stampa, non è caduto dal pero, però ci ha detto ma non è un aumento, è una semplificazione tariffaria. Allora di fatto sì, nella forma lo è, perché da due tariffe si passa ad una unica, e però insomma una determinata tipologia di traffico subisce una riduzione tariffaria, un'altra tipologia di traffico subisce degli aumenti, per cui è proprio questione di punti di vista. Avvocato Luongo, lei che cosa ne dice? Tra l'altro voi, proprio in virtù di questa novità, vi siete affrettati ad interpellare l'autorità garante delle comunicazioni che vi ha ricevuto nei giorni scorsi. Che cosa vi hanno detto? Guardi, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ci ha detto candidamente che a loro volta non erano a conoscenza della manovra tariffaria che è stata comunicata prima alla stampa e alle associazioni dei consumatori, solo dopo all'autority, che ha richiesto tutta la documentazione utile a fare cosa? A verificare quale sarà l'impatto di questa manovra e a effettuare i test di prezzo che sono previsti dalle delibere dell'autorità. Alcuni blogger l'hanno chiamata manovra pesce d'aprile, questa nuova iniziativa di Telecom. Perché? Perché appunto si è parlato forse un po' eccessivamente di semplificazione, non sottolineando quello che è un aspetto a cui noi associazioni dei consumatori teniamo molto, ovvero sia l'incremento del 163% del prezzo che ci sarà sulle chiamate dal fisso. Ricorderà come sin dal 2008 abbiamo cercato di insegnare ai nostri ascoltatori di chiamare sui cellulari dal cellulare e per i fissi dal fisso. Bene, questa dinamica, questa buona regola è ormai venuta meno e dal 1 aprile, giorno di decorrenza di questa nuova manovra, sarà ormai un aspetto consolidato, anche se noi speriamo che fino ad allora riusciremo a far modificare o a eliminare quelle che ci sembrano alcune criticità di questa nuova manovra tariffaria. Tra l'altro va ricordato, e questo è un aspetto che voi avete anche evidenziato davanti all'autorità delle comunicazioni, va ricordato che c'era già stato un altro ritocco dal 1 luglio per le chiamate tra telefoni fissi, mi pare, avvocato Luongo, no? Assolutamente sì, ricordiamo che questa nuova proposta tariffaria di Telecom segue quella che vi è stata ed è entrata in vigore il 1 luglio del 2012, in cui vi era stato un ulteriore aumento delle chiamate sui fissi, portate da 0,70 centesimi al minuto a 1,90, quindi da 1,90 poi da luglio 2012 ad aprile 2013 si passerà a 5 centesimi al minuto. Voglio ricordare anche l'aspetto non secondario, che gli utenti della telefonia avevano subito anche il rincaro di un punto percentuale dell'IVA, che ricordiamo si paga sia sul canone sia su tutte le voci di costo della bolletta, che è passato dal 20 al 21%, e da luglio del 2013 avremo l'ulteriore incremento al 22%. Cosa che andrà ad aggravare ulteriormente il cosiddetto adeguamento del canone all'inflazione, cosa che colpisce moltissimo quelle fasce di utenza che utilizzano i servizi telefonici al minimo. Ecco, poi ci racconterà appunto se come associazione dei consumatori avete fatto anche una previsione, un potenziale monitoraggio di quali fasce sociali potranno essere particolarmente penalizzate rispetto a questa rimodulazione. Allora non chiamiamoli né aumenti né diminuzioni né semplificazioni, una rimodulazione tariffaria che però qualche impatto negativo è evidente che ce l'avrà. Avvocato Di Rocco, invece, per quello che riguarda, come dire, la metodologia di comunicazione di queste novità, l'azienda si è comportata correttamente, ha fatto un po' come fanno le banche, rivedono naturalmente i termini contrattuali con i propri clienti, poi la comunicano. Questo nuovo regime tariffario entrerà in vigore dal 1 aprile, come dire, intanto nell'impostazione, nella metodologia è tutto a posto. Cosa ci dice l'avvocato specializzato in diritto dei consumatori? Beh, al momento attuale si tratta di una comunicazione fatta semplicemente a livello di comunicazione di massa, ma dal punto di vista contrattuale dovrà essere seguita da una comunicazione scritta a ciascun cliente Telecom, nel quale viene dato conto delle future, delle imminenti modifiche. Questo perché già a partire dai decreti Bersani del 2007 qualunque variazione unilaterale del contratto, per essere efficace nei confronti dell'utenza, deve essere comunicata espressamente per iscritto. Quindi a seguire a questa, che è una anticipazione delle intenzioni dell'azienda, poi dovrà seguire contrattualmente un'espressa comunicazione nella quale si dà atto di quelle che saranno le variazioni unilaterali del contratto che si intendono apportare. Certo, in modo tale che poi chiaramente anche i clienti possano fare scelte di mercato differenti se si dovessero ritenere penalizzati, no? Da questa questa rimodulazione, quindi questa nuova tariffa, dall'arrivo di questa tariffa unica. Allora, abbiamo già sentito tante cose interessanti. Io vi ricordo che potete chiamarci all'800240024 anche per chiederci di chiarire qualche aspetto qualora non l'avessimo spiegato bene. Ci sono anche tanti messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Max da Pistoia ci racconta, chiaramente stanno arrivando testimonianze di conflittualità di vario tipo con il proprio operatore delle telecomunicazioni, per cui poi se vorrete potremo anche un po' deviare dall'argomento principale di oggi e accogliere anche queste testimonianze. Ho chiuso il contratto fisso perché le uniche telefonate che ricevevo erano offerte e non ne potevo più. Adesso stanno cominciando anche sul cellulare, è vero, anche perché il nostro numero lo inseriamo magari su tanti siti internet per fare tante operazioni, effettivamente ormai ci raggiungono in ogni modo. Ivo da Paola ci racconta che userà il telefono di meno, cosa che ho fatto anche per esempio con l'auto. Quello che ci comincia a costare di più chiaramente viene ad essere utilizzato di meno, con grave penalizzazione anche dei consumi generali nel nostro paese, e poi un cane che si morde la coda. Però in qualche modo, laddove si può risparmiare, chiaramente sono scelte che si fanno. Sentirei Roberto da Messina e gli rispondiamo nella seconda parte del programma. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire, veramente volevo chiedere una cosa. Cioè, per tutto ciò che riguarda tutti gli abbonati che hanno aderito al contratto flat, per i fissi, telefonia nazionale, cose varie, cosa succederà adesso? Cioè, visto che la tariffa è uguale, anche le chiamate sui cellulari sarà gratis, oppure dovrò pagare un extra, con quale tariffa? Certo, grazie Roberto. Adesso studiamo un attimo cosa potrebbe succedere a tutti quegli utenti che hanno una tariffa fissa per tutte le telefonate in uscita, sia verso cellulare che fisso. Io per esempio a casa non ho questo operatore, ne ho un altro, però ho il flat solo per quello che riguarda telefoni fissi. Pago invece il flusso appunto di telefonate verso i telefoni cellulari, per cui cercheremo di capire che cosa potrebbe succedere a tutte le tipologie appunto di utenti di questo tipo. Chissà che con questa rimodulazione tariffaria qualcuno non dica addio proprio al telefono in casa. E invece Telecom ha deciso dal 1 aprile di applicare questa tariffa unica per tutte le telefonate da rete fissa, sia che siano dirette verso cellulari, sia che siano dirette verso i fissi nazionali. Ci sarà dunque un prezzo unico dai 9,90 centesimi al minuto verso i cellulari e dall'euro e 90 centesimi al minuto verso i fissi nazionali. Si passa a questa tariffa unica, 5 centesimi al minuto verso tutti. Però questa è una semplificazione, dice l'azienda, e tra l'altro proprio l'amministratore delegato di Telecom Patuano ha detto: con questa novità noi vogliamo offrire ai nostri clienti una maggiore libertà nell'utilizzo della linea telefonica di casa. Tra l'altro volevo fare anche una considerazione con i nostri ospiti di questa mattina. Avvocato Di Rocco, ritorno con lei. Noi già eravamo pronti ad immaginare un telefono in cui un futuro in cui il telefono fisso a casa non esistesse più, no? Siamo ormai talmente abituati ad utilizzare le tecnologie mobili. E invece sembra quasi un po' un ritorno al passato, no? Con questa novità, che ne pensa? Beh, questa, a livello personale ritengo che comunque non si eviterà un passaggio verso altri sistemi telefonici, che sia quello mobile o l'utilizzo di linea internet poi per fare anche le telefonate ordinarie. Ormai sono molti programmi su internet che consentono di fare le telefonate anche verso i numeri fissi con tariffe molto più basse. Certo che indubbiamente, come si diceva all'inizio della trasmissione, questa forma, questo annuncio, ecco, di Telecom, questa forma scelta da Telecom per pubblicizzare la cosa, se è vero che da un lato semplifica un po' i calcoli, dall'altro lato andrà a incidere soprattutto su coloro che sono meno avvezzi all'utilizzo di altre forme di telefonia mobile o di internet, quindi diciamo che, ecco, lascia molto sorpreso soprattutto l'aumento così elevato della tariffa fissa vera e propria, che infatti è un po' anacronistica, insomma, suona un po' anacronistica. Ecco, infatti. Allora, tra l'altro, volevo ricordare un aspetto importante, visto che adesso ci soffermeremo anche su quelle fasce sociali che potenzialmente potrebbero subire le maggiori penalizzazioni da questa rimodulazione. Abbiamo già detto anche che c'è un rialzo del costo dell'abbonamento, perché viene portato da 16,64 € al mese a 17,40 €. Questo aumento però non scatta per tutti coloro che sono titolari di social card, per cui ricordatevelo, perché questo aumento, appunto, di un euro poco meno, appunto, non ci sarà, almeno per queste persone. Allora, avvocato Luongo, Movimento Difesa del Cittadino, ha sentito Roberto da Messina che chiedeva, io adesso mi sono andata un po' a riguardare anche i termini della nuova offerta di Telecom, ho un po' di documentazione, ma non ho capito bene se chi ha già un contratto che prevede delle tariffe flat subirà anche questa rimodulazione. Assolutamente no. Questa rimodulazione si applica ai titolari di abbonamento base, quindi l'abbonamento al telefono fisso senza ADSL, un numero di utenti che si dovrebbe attestare intorno ai 7 milioni circa, dei 14 e mezzo, sempre circa, che sono titolari di un contratto con Telecom Italia. Volevo però spiegare più specificamente un po' le ragioni di questa manovra. È in atto una fuga dal telefono fisso. Nel 2011 ci sono stati 511.000 utenze fisse di meno rispetto all'anno precedente. Causa anche la crisi economica, sono sempre di più le famiglie che rinunciano al telefono fisso e al pagamento, quindi, e all'onere del canone per passare appunto, perché il problema è quello, è la persistenza del canone, perché molte famiglie fanno anche poche telefonate e non capiscono perché devono, è un po' come la tassa di possesso della televisione, del canone Rai, no? Io ho questo mezzo, devo pagarlo un bel po' di soldini pur a fronte magari di pochissime telefonate, per cui effettivamente magari si preferisce, visto che tutti i nuclei familiari, tutti i membri del nucleo familiare hanno il cellulare, si cercano delle tariffe convenienti per il traffico mobile e via. È anche ragionevole una scelta di questo tipo, avvocato, no? Assolutamente sì, le dico di più, Telecom comincia a perderci sui servizi tradizionali. I dati dell'ultimo trimestre, l'ultima relazione trimestrale, attestano una perdita del giro d'affari sui ricavi tra fonia tradizionale e messaging del 4,7%. È per questo che l'azienda, da un lato, abbassa il prezzo sulle chiamate dei cellulari, anche perché, ricordiamo, è entrata in vigore la nuova normativa sulle tariffe di terminazione mobile dal 1 luglio 2012, che prevede appunto una riduzione della tariffa del 53%, quindi il pedaggio che viene pagato dai per quanto riguarda la telefonia mobile. Quindi questa riduzione del 50% è un po' in linea con quello che è il provvedimento adottato in sede comunitaria e poi riportato in Italia dall'Agicom, attuato dall'Agicom, di abbassamento di queste tariffe. Dall'altro, quindi, invita gli utenti a passare a forme di abbonamento flat, ad attivarsi la linea ADSL, e quindi in qualche modo vengono messi un po' in difficoltà tutta quella fascia di utenza che gli inglesi hanno, l'Ofcom inglese, che è l'autorità delle comunicazioni inglese, ha definito basic needs, cioè persone che fanno un uso minimo del telefono, non hanno accesso a internet, che loro inquadrano come una coppia di anziani attempati, su cui questa indagine dell'Ofcom, che noi abbiamo richiamato sia all'incumbent che all'Agicom per invitarli a rivedere questa manovra, hanno subito in Italia, rispetto a Germania, Spagna, Francia e Stati Uniti, gli aumenti maggiori nella tariffa nel 2012, quindi sono una categoria di persone su cui questa dinamica di mercato e l'azione posta in essere da Telecom per cercare di salvaguardare i propri giusti e corretti interessi aziendali relativamente a quelli che sono i ricavi, però si vedono un attimo messi sotto pressione, ed è per questo che insieme ad altre associazioni abbiamo chiesto, appunto, innanzitutto voglio ricordarlo, quelle che sono state le richieste: la rinuncia all'aumento del canone per i clienti domestici, la modifica della nuova tariffa nella parte in cui si prevede questo aumento così forte delle chiamate sui telefoni fissi, ed eventualmente, se proprio non si vogliono fare queste modifiche, rendere questa nuova tariffa facoltativa, cioè far sì che chi è veramente interessato, chi ad esempio ha un traffico forte dal fisso sui mobili, possa accedervi. Questa mi sembra forse, se le devo dire, avvocato, la proposta più ragionevole, perché magari uno si fa un calcolo ed effettivamente riscontra che la rimodulazione gli conviene, e non è detto appunto che possa succedere anche questo. Andiamo ad un'altra ascoltazione. Paolo da Pesaro, buongiorno. Paolo? Pronto? Paolo, ci sente? Eccoci qua. Innanzitutto, io la sento, voi mi sentite? La sentiamo benissimo adesso, ci dica. Perfetto, innanzitutto vi ringrazio per la consueta professionalità con la quale affrontate le varie problematiche. Grazie. E io mi riaggancio a quello che voi stavate dicendo, perché proprio calza a pennello nel caso specifico. A casa abbiamo chiaramente cellulari che ormai hanno tutti, e questa linea telefonica fissa, alla luce anche di quello che voi stavate dicendo, cioè penso proprio che sia il caso di toglierla da parte mia. Però mi chiedevo, la possibilità di utilizzare internet in casa senza essere agganciato a una utenza fissa esiste? E poi, se posso aggiungere una cosa molto breve, Telecom, io ho un'esperienza diretta a dir poco disastrosa. A casa l'abbiamo lasciata, in ufficio siamo passati a Wind e onestamente, se abbiamo avuto dei problemi, come ci possono essere in genere, ci sono sempre dimostrati molto disponibili a risolverli. Invece Telecom è un muro di gomma, qualcosa di impressionante. Guardi Paolo, lì tante volte, grazie a lei per la sua testimonianza, è veramente questione di fortuna. Qualcuno magari potrebbe anche dire il contrario, io sono assolutamente convinta che anche nei call center, nei luoghi dove ci sono le persone che sono deputate a fornire assistenza alla clientela, ci sono persone più o meno volenterose che si spende un po' di più con la clientela, quindi questo vale per tutti. In questo caso l'ascoltatore di Pesaro ha avuto una brutta esperienza con Telecom e gli è andata meglio con Wind, e le posso assicurare che sento tante persone che mi raccontano il contrario, quindi chiaramente poi dipende un po' anche dalle circostanze, dalle problematicità appunto che si pongono e da tante altre cose. Però avvocato Di Rocco, intanto possiamo dare secondo lei una prima risposta all'ascoltatore: è possibile avere internet in casa senza un modem attaccato a qualche parete e quindi, che ne so, può cadere dall'alto questo collegamento a DSL? Il problema dell'internet in casa è proprio quello. A oggi, per quello che ne so, non sono un esperto, un tecnico, diciamo. Sì, qua adesso rischiamo anche di fare una figuraccia a tutti quanti. Però, per quello che ne so, per avere internet collegato a una linea telefonica bisogna avere per forza una linea base con Telecom e poi eventualmente si cambia operatore e su quella linea si opera con un altro operatore, però l'attivazione della linea va fatta con Telecom. Altrimenti ci sono le soluzioni con le fibre ottiche che non sono disponibili dappertutto. Oppure ci sono oggi dei collegamenti che, se non sbaglio, operano direttamente via radio, via satellite, e si fanno delle installazioni per quelle località che non sono raggiunte meno dal telefono, possono consentire di utilizzare internet attraverso questi sistemi, che sono ovviamente tendenzialmente più costosi. Nella quasi totalità dei casi, per avere internet si deve poi comunque passare per l'attivazione di una linea Telecom. Quello è anche nel mio caso specifico esattamente così. Di fatto la linea telefonica in casa serve solo per l'appoggiarci la DSL, tutto il resto dei servizi. Allora, tutto il resto viene fatto infatti. Allora, c'è Gianni che ci scrive, adesso andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, ma intanto vi anticipo un altro paio di domande. Gianni da Rutigliano ci scrive: per me dal 1 gennaio lo scatto alla risposta è passato da 10 a 20 centesimi, ho una tariffa business, quindi anche un altro ritocchino in un altro ambito c'è stato. Alessandro ci scrive 0,60 centesimi di telefonate, 0,50 di spedizione fattura, totale a bimestre 34,50 euro, adesso l'aumento, darò disdetta anch'io. Alessandro, anche lì è chiaramente un, come dire, un conteggio economico, le serve, non le serve, chiaramente ognuno si fa i conti in casa, e magari fino a questo momento, insomma, anche i piccoli aumenti che erano arrivati erano stati considerati tollerabili, adesso magari con questo nuovo ritocco non lo sono più, e insomma ognuno può scegliere, per fortuna adesso almeno abbiamo queste opportunità. Piange il telefono perché lei non verrà. Facciamo fare il DJ a Marco Lombardo nella sua prossima vita, dopo che tra moltissimi anni mi avrà abbandonato a Salvadanaio. Probabilmente si sarà fatto anche una cultura musicale, perché stiamo veramente scegliendo di tutto e di più per accompagnarci nella spiegazione delle tematiche invece finanziarie, che sono poco digeribili a volte. Allora, noi oggi stiamo parlando della rimodulazione delle tariffe Telecom, che entrerà in vigore a partire dal 1° di aprile. Non sarà un pesce, ma sarà appunto una tariffa unica, 5 centesimi al minuto, verso sia i telefoni cellulari che i telefoni fissi. Quindi si riducono i costi del traffico telefonico verso i cellulari, aumentano invece i costi per i traffici verso i fissi nazionali. E allora, che impatto ci sarà tra le abitudini dei consumatori? Stiamo cercando questa mattina di così un po' quantificarlo, per quello che è possibile. Bisognerebbe vedere le abitudini all'interno delle famiglie quali sono, per fare delle quantificazioni esatte. Però chiaro che chi fa un largo utilizzo di telefono fisso, quindi popolazione anziana, che sta molto in casa, ne verrà penalizzato, anche perché aumenta anche il canone. E 800 24 00 24, il numero verde per continuare a sentire le vostre domande. Sentiamo Rita da Roma, poi ritorniamo all'avvocato Luongo del Movimento Difesa del Cittadino. Rita, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, nel mio caso è questo: noi abbiamo una casetta in montagna, nel comune di Campello sul Clitunno in Umbria, e è in cima a una montagna. E lì il telefono fisso non prende, il telefono cellulare. Di conseguenza, per nostra tranquillità e sicurezza, certo, perché oltretutto non c'è tanta gente, per non dire nessuno, è praticamente il telefono per noi è vitale, certo, per qualsiasi cosa. Ora la adoperiamo pochissimo, perché ci si sta l'estate e qualche volta d'inverno, e di conseguenza, se ci aumentano anche ancora di più il canone, certo, comincia ad essere è già un sacrificio. Sono 80 centesimi in più al mese, Rita, però purtroppo il fatto che sia un apparecchio dal quale fate poche telefonate vi può far risparmiare sul traffico, però purtroppo dal fronte del canone, avvocato Luongo, il fatto che vivano in montagna dove il cellulare non prende non è una condizione che li potrà far risparmiare. Assolutamente no, a meno che non rientrino in una delle categorie economicamente che sono previste, sì. Però i titolari di social card, dicevamo, non saranno colpiti dall'aumento del canone. Ma non so se ce ne sono altre. Dall'aumento del canone, mentre sulle telefonate anche loro andranno a pagare di più nelle telefonate fisso. Fisso. Io volevo sottolineare una cosa: il canone da molti odiato è forse uno degli aspetti che più porta l'utente a pensare di cambiare operatore. Canone che serve? Serve a teoricamente mantenere la rete, a far fronte a quelle che sono le spese di manutenzione della rete. Noi non siamo d'accordo come associazione dei consumatori sull'adeguamento del canone all'inflazione, anche per un fatto, ovvero sia che non riteniamo il servizio, non riteniamo sussistere un miglioramento effettivo dei servizi da parte dell'azienda. Ma se non sbaglio, l'amministratore delegato vi ha incontrato e vi ha illustrato proprio in un incontro che poi c'è stato questo comunicato stampa il 15 gennaio, in cui vi ha raccontato tutti gli investimenti che l'azienda sta facendo per migliorare i suoi servizi. Non vi hanno convinto? Guardi, noi abbiamo preso atto con piacere di questa volontà dell'azienda di investire soprattutto nelle reti di nuova generazione, abbiamo però dei problemi su quello che è il servizio universale, cioè quel quantitativo di servizi minimi che devono essere garantiti a tutti gli utenti. ogni anno viene fissato, vengono fissati dei parametri dall'Agicom, abbiamo partecipato alla discussione e Telecom aveva proposto per il 2013 una serie di parametri su cui non abbiamo concordato e per la verità non ha concordato nemmeno l'Agicom, che ha fissato invece dei livelli qualitativi più elevati. Ecco, avremmo preferito che si fosse fatto prima il punto su tutta una serie di questioni legate al servizio di telefonia fissa e poi si fosse partiti con questa nuova tariffa. Ecco, questa questo essere così stati così precipitosi sinceramente ci ha lasciato un po' perplessi. Allora, andiamo a sentire Elena dalla provincia di Monza e Brianza, poi Roberto da Roma per concludere con le nostre telefonate. Elena, buongiorno. Buongiorno a lei. Praticamente mi avete già risposto, perché il caso è di mia madre, 84 anni, non vuole chiamare col cellulare e paga tantissimo di canone e quindi mi è sembrato di capire che non c'è soluzione, perché ho provato a chiamare la Telecom, però mi hanno detto che no. Anche se è anziana, il canone non è una questione anagrafica, è una questione reddituale, quindi è legato appunto questo eventuale risparmio alla sottoscrizione, all'avere la social card o meno. E quindi ecco qua abbiamo individuato quali sono le fasce sociali che verranno più penalizzate e queste magari si potrebbe anche creare una condizione così un po' più vantaggiosa, no? Se sono anziani, il telefono cellulare non lo usano perché è naturale che non lo usino, è più complicato per loro, per cui è chiaro che a queste persone bisogna andare incontro e magari, come dire, fare anche un'offerta in bolletta che eviti di penalizzarli economicamente eccessivamente. Roberto da Roma, quindi ci dispiace che oggi i signori di Telecom non abbiano accettato il nostro invito, perché magari potevano anche accogliere tutte queste considerazioni che sono assolutamente di buon senso, non di critica, e magari poi studiare anche un'offerta aggiuntiva per queste persone. Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno, le chiedo scusa dottoressa Deborah Rosciani. Ma essendo l'ultimo, chiaramente in parte sono stato già superato e quindi ho già avuto risposte. Ce le ribadisca infatti, le sue cose, Roberto. La mia domanda era questa: io ho il telefono fisso, non ho DSL, non ho nulla, e tramite il semplice telefono per chiamare con il vecchio abbonamento ormai da 30 anni a questa parte. E quindi praticamente sarei tra le persone più penalizzate, perché magari non avendo quel traffico eccessivo, ma è limitato alle persone tra fisso e fisso e qualche volta con attraverso chiamare i cellulari, quindi sono quello praticamente come le persone anziane, anche se non sono poi tantissimo anziano, e questo è il senso, insomma, che praticamente noi saremmo tra quelli più colpiti da questa rimodulazione, elegantemente chiamiamola così. Roberto, guardi, io spero che questa trasmissione in Telecom la ascoltino e quindi percepiscano e recepiscano la portata del problema. Devo chiudere la trasmissione, mi manca ancora un minuto e mezzo di tempo e posso concedere, visto che ho due avvocati questa mattina, posso concedere a loro lo spazio per una piccola arringa finale su questo tema. Avvocato Di Rocco, tocca a lei, c'è qualcosa che dobbiamo dire ancora che non è stato detto nel corso del programma, che magari vale la pena sottolineare? Direi che su questo problema chiaramente nel corso del programma che più che l'aumento in sede o la semplificazione, diciamo così, delle tariffe, il vero problema rimane per Telecom il canone, l'importo del canone, che comunque è quella parte fissa, quella indefettibile, che crea veramente molti problemi a tutti coloro che per necessità devono ricorrere all'utilizzo della linea fissa. Meno male i consumi uno se li può regolare, però purtroppo il canone no, quindi quello è il vero problema. Esatto, ed è molto chiaro, questa mattina è emerso. Avvocato Luongo, ultima ringa di 20 secondi anche a lei. Assolutamente sì, grazie. Noi associazioni dei consumatori faremo, cureremo, tuteleremo gli interessi degli utenti della telefonia fissa domestica fino all'ultimo giorno possibile, prima dell'entrata in vigore di questa nuova tariffa, di cui abbiamo chiesto a Telecom una serie di modifiche, abbiamo partecipato tutte quelle che erano le nostre perplessità all'Agicom, speriamo di riuscire a portare un risultato utile. Comunque, certo, ci proveremo. L'Agicom vi deve rispondere, tra l'altro, dopo aver presentato le vostre istanze? Assolutamente sì, Agicom molto disponibile e dobbiamo ringraziarla, infatti si è attivata subito e sta facendo tutta una serie di test per verificare l'impatto specifico che ci comunicherà. Ci tenga al corrente delle novità. Grazie all'avvocato Francesco Luonga, all'avvocato Maurizio Di Rocco, a Marco Lombardo, Gianmarco Ferronato. Noi con Salvadanaio torniamo domani di nuovo un punto sul caso Monte dei Paschi. A tutti buona giornata.